Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi si gioca. Si gioca tutti insieme, ma in particolare a suggerire, se vi fa piacere, il nome dell'allenatore prossimo venturo di Juventus e Milan, per l'appunto. Non è un'idea follemente originale, questo mi rendo conto, ma dopo aver letto stamane su Repubblica che la Juve è sempre più Spalletti, su Tutto Sport a caratteri cubitali che avanza Conte, sul Corriere dello Sport che è fatta per Gasperini che si porta in dote anche Thiago Motta e su Stampa e Gazzetta che Ranieri non è ancora out, ho pensato per l'appunto di intervenire per la completezza dell'informazione via sms, via mail, via telefono, come sempre all'800 24 0024 per dar conto del nome del vostro preferito e possibilmente con un sintetico perché. Lo stesso vale per il Milan, nettamente spiazzato dall'uscita del suo presidente che ha in pratica azzerato il lavoro di ricucitura in atto da settimane tra Galliani e Ancelotti. Anche in questo caso la rassegna stampa è ricca di nomi, di ipotesi, da Leonardo ad Allegri, a Spalletti stesso, Rijkaard, Van Basten, senza ancora escludere del tutto una riconferma di Ancelotti, anche se ormai sempre più altamente improbabile. Sullo stesso argomento, cioè il futuro allenatore di Juventus e Milan, è in corso anche un sondaggio sul sito del Sole 24 Ore. Di tutte queste, insomma, di questa ampia rassegna stampa, la considerazione, anzi il servizio più spiazzante è quello, ripeto, che vorrebbe per la piazza torinese un rilancio della possibilità che Ranieri possa essere ancora confermato. Vi dicevo che è affacciata su alcuni giornali, a cominciare dalla Gazzetta e dalla Stampa. La Stampa scrive in particolare: sfiduciato da quasi tutti, tanto da imporre alla società la ricerca di un sostituto, Claudio Ranieri potrebbe restare al governo anche nella prossima legislatura. Non è caduto, almeno nel CDA di ieri, che di conseguenza non ha votato neppure il successore. Di Ranieri si è occupato il comitato sportivo, molti consiglieri hanno apprezzato il suo impegno e il suo lavoro, soprattutto dopo la partita di San Siro con il Milan hanno intuito che il tecnico ha ancora in mano la squadra, così le somme si potrebbero davvero tirare solo alla fine, come ha detto il presidente Cobolli Gigli uscendo dalla sede bianconera, anche se al momento il cambio di panchina rimane l'opzione più robusta, ma insomma è in ogni caso una piccola novità, probabilmente temporanea, ma è una novità. Quindi, insomma, ripeto, attendo le vostre scelte su queste due panchine prestigiose, due delle tre principali italiane. Nel frattempo non possiamo certamente dimenticare né trascurare che stasera si gioca una finale di Coppa Italia inedita, che dopo tanti anni di confronti diretti tra quattro ininterrotti, gli ultimi tra Inter e Roma, cioè le squadre che dominavano il campionato, insomma, che si giocavano perlomeno nelle due ultime stagioni anche il campionato oltre alla Coppa Italia, dicevo, dopo una lunga dittatura delle grandi anche in Coppa, stavolta invece c'è una finale completamente alternativa tra Lazio e Sampdoria stasera all'Olimpico, in finale secca all'Olimpico di Roma con la presenza del capo dello Stato. La vigilia sull'un fronte e sull'altro, cominciamo dai due allenatori. L'ospite perché è un campo neutro quello dell'Olimpico, ma giocandoci la Lazio fino a un certo punto. Quindi prima Mazzarri. Mi hanno detto che la finale in questi casi, quando c'è la squadra della città, poteva essere spostata in un campo neutro, quindi tutte e due avrebbero fatto una trasferta, le tifoserie avrebbero fatto una trasferta e quindi sarebbe stato tutto in equilibrio. Solo per questo, perché è evidente che giocare davanti ai propri tifosi in teoria un minimo di vantaggio c'è. Anche se dico che rispetto al campionato questa è una partita diversa e quindi è minore il vantaggio. Questo era Mazzarri, allenatore della Sampdoria, che esaminava, come avete sentito, la componente ambientale di una finale secca che si gioca in realtà in casa di una delle due squadre. Ma insomma, se la finale si gioca all'Olimpico e si qualificano la Lazio o la Roma, questo è un problema che c'è anche altrove, perché la finale di Coppa viene sempre giocata nello stadio della capitale. Sentiamo Delio Rossi. Secondo me noi dobbiamo giocare come dovremmo sempre giocare, con grandissima testa e soprattutto con grandissimo cuore. Sarebbe di fondamentale importanza, soprattutto per la nostra gente, quindi mi aspetto un ambiente consono per la nostra gente, perché in questi ultimi anni hanno visto vincere più gli altri rispetto a noi, e quindi soprattutto per loro sarebbe importante, e so quanto ci tengono, e so che domani sera cercheranno in tutte le maniere di portarci a vincere questo trofeo. Cassano è un giocatore che terremo d'occhio, come dobbiamo tenere d'occhio anche gli altri. Mi auguro che anche loro terranno d'occhio i nostri. Mazzari ha detto che siamo favoriti noi. Se lui riesce a vincere il trofeo significa che ha fatto una grande impresa, se non riesce a vincerlo ha perso contro la favorita. Schermaglie dialettiche tipiche da vigilia. Fioccano le prime indicazioni di voto. Ranieri, scrive Paola, meglio non poteva fare. È la dirigenza invece che è da cambiare. Hiddink per la Juve, perché ha fatto diventare forte pure il PSV, scrive Marco. Qualcuno è più difficile da solo Juventino, e se tutto sport dice Conte, io a priori sono contro. A me non dispiace Ranieri, ma anche Spalletti e Gasperini non mi dispiacciono. Il problema è vero rinforzare la rosa. Poi bisogna interrogarsi sul modulo preferito di un allenatore e analizzare se abbiamo i giocatori giusti per quel modulo. Beh, questo è un discorso più serio, tenendo conto che non sempre poi sono i giocatori, gli allenatori a orientare le scelte di mercato. Chi arriva alla Juve, per esempio, Diego Cannavaro, se li deve far andare bene, proprio per citare l'esempio più recente, visto che sono già stati presi, e può darsi che non corrispondano alle aspettative o comunque al concetto di rinforzo vero che un allenatore che arriva può avere. Ballardini per stile e carattere, scrive Cesare da Cremona. Pietro da Milano dice: visto che si fa per gioco, mi divertirebbe un sacco vedere Zenga al Milan. Andrea da Bologna vota Deschamps. Ah già, dimenticavo, non è da Juve, carina questa. Insomma, e alcune altre. Io non riuscirò a leggerle tutte perché insomma, sono troppi, però vediamo di farlo nei limiti del possibile, e quindi agli ascoltatori già in linea, già collegati, chiedo magari un pochino di sintesi proprio per dare più spazio e più ventaglio. Poi magari la registrazione di questo programma lo mandiamo alla sede della Juventus, e mi auguro anche del Milan, però, perché vi ricordo che riguardava tutte e due queste squadre. Andrea Perugia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Io sono un tifoso neutro perché noi siamo in C1, quindi provo a dire la mia. Sì. Sono già contento che gli italiani non cerchino più gli allenatori stranieri, perché noi siamo esterofili per eccellenza, no? Gli altri sono sempre più bravi. Però dagli altri prendiamo gli esempi tipo Manchester e Arsenal. Ben vengano, l'Ancelotti della situazione, io sono strafelice per lui, perché ha sempre dimostrato di avere cuore e chiaramente carattere oltre che competenza, e così Ranieri. Io spero per il bel calcio che restino al loro posto, poi che vengano i nuovi Allegri eccetera, ben contento anche per gli altri. Però sono contento che restano alle provinciali, perché fanno giocare bene le provinciali. Questo... Il calcio è bello anche per questo. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Le solite quattro. Primo intervento, diciamo, ecumenico. Andrea, ma lo dico in senso positivo, non ironico. Marco scrive: per mantenere fede alla linea di ringiovanimento del Milan proporrei per il prossimo anno un emergente come Mazzone. Giuliano da Roma, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Chiamo da Roma, ma sono di Trieste. Sì. Approfitto per farvi complimenti per il libro sul Paron, che mi ha smosso emozioni che non ricordavo da tempo. Grazie. Ci vorrebbe il Paron per il Milan, secondo me, ma ovviamente certo. La cosistica come... Farebbe ancora la sua figuretta. Ne sono sicuro. Proporrei piuttosto Scolari al Milan, forse perché in Inghilterra non ha trovato il tipo di calcio che lui esprime, e invece credo che in Italia avrebbe modo di dimostrare quello che ha già fatto in altre sedi. Mm-hmm. Scolari è un nome interessante, tra l'altro credo che sia libero. Dal Chelsea è libero sicuro, ma penso che non... questa disavventura inglese lo ha, insomma, ha un po' fermato le sue quotazioni, quindi probabilmente in questo momento è libero. Maifredi, c'è bisogno di bollicine, scrive Nick da Siena, ricordando un'esperienza non felicissima di panchina juventina. Poi c'è qualcuno che scherza, tipo Zeman all'Inter con Quaresma capocannoniere, vabbè. Io tifo Inter, ma il prossimo anno con Conte la Juve può vincere lo scudetto, perché ci ha già azzeccato con Diego, che è piccolino ma ha grande classe. Punto su Antonio Conte, conosce l'ambiente. Ex centrocampista, di solito i migliori allenatori hanno giocato in quel ruolo, scrive Daniele da Bologna. Sentito ieri Zoff, scrive Stefano da Brescia, io dico, io voto Zoff per tutte e due queste squadre di cui si sta parlando. Nicola, Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto, visto che hanno citato un libro, cito anche un CD, Football Servillo, tratto dall'omonimo libro di Soriano, un gran capolavoro, e se vi è possibile fatelo ascoltare. Detto questo, Gasperini da sempre, se a Ranieri non rinnova il contratto adesso, o rinnoviamo il contratto a Ranieri, oppure se dobbiamo tenere un altro anno sulla graticola, tanto vale cambiare e puntare su Gasperini, che ha fatto bene a Crotone, a Genova, cambiando completamente squadra in due anni. È un uomo che conosce l'ambiente juventino ed è una persona per bene, questo è quello che penso. Grazie, grazie Nicola. Sono Marco da Verona, juventino. Se fossi nei panni dei dirigenti, sceglierei tra Mancini e Benitez. Beh, Benitez credo che prima di rinunciare al Liverpool, insomma, qualche pensierino lo farebbe. Su Mancini ci sono problemi di... credo ci sarebbero problemi di opportunità ambientale, come dire. Mirko scrive Gasperini alla Juve perché è un prodotto del vivaio, e Spalletti al Milan. Massimo, Torino, buongiorno. Massimo, dica. Sì, pronto, buongiorno. Volevo solo uscire un attimo dall'argomento, se era possibile. Siccome non vi ho seguito in questi due giorni, sì, io, guardando la partita Milan-Juve, ho avuto come l'impressione che nella parte finale, non so se è già stato detto, soprattutto dopo l'espulsione del giocatore milanista che non ricordo, che la Juve forse non avesse così tanta voglia di spingere per portarsi sul 2-1. Ho come avuto quell'impressione lì. Volevo sapere da lei cosa ne pensava riguardo. È già stato detto nei giorni scorsi, è leggermente superato, e avevo già detto che non ho avuto affatto quell'impressione, ma proprio nel modo più assoluto. Carolina Moraci al Milan, così aumentano la vendita di gadget tra il pubblico femminile, scrive Michele da Padova. Beh, insomma, non esageriamo, i gadget li vendono con Beckham e Ronaldinho al momento. Penso che arriverà Spalletti alla Juve con Ballardini alla Roma, scrive Paolo da Brescia. Spalletti alla Juve sarebbe l'unico a saper far giocare insieme Giovinco e Diego, scrive Alex da Udine. Qui vincono solo i presuntuosi, Lippi, Mancini, Capello, Mourinho. Vedi Ancelotti, grande uomo e allenatore, per cui voto. E aspetto ancora Ranieri. Emanuele, juventino da Riccione, perché non Zeman alla Juve, sarei proprio curioso, scrive Luis da Treviso. Vabbè, insomma, credo che non sia il caso di esagerare per tante ragioni. Ma Scala che fine ha fatto? Domanda un ascoltatore. Scala non si è ritirato. Scala ha fatto delle scelte all'estero nelle sue ultime avventure, e evidentemente in Italia il mercato si è un po' chiuso per lui, perché non si è ritirato come, non so, come Bagnoli o come lo stesso Ottavio Bianchi. Facciamo in tempo a sentire ancora Marco da Ancona. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Dica Marco. Marco la richiameremo perché la linea è pessima. Cesare, Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io non so se le dichiarazioni di Berlusconi a Palazzo Repubblica siano vere o meno. Fossero comunque, credo che Ancelotti andrà via al 99%, penso che il tecnico del Milan sarà Leonardo. Conoscendo Berlusconi, credo che abbia sia in mente di poter aprire un nuovo ciclo, ma si affiderà senz'altro a una persona seria, competente, tecnica come Leonardo. Non ho dubbi su questo, sempre che non tengano Ancelotti. E lascio una possibilità, magari uno fra Van Basten e Rijkaard. Io non vedo altre strade personalmente. Grazie Cesare. Ma da quando si compra gli allenatori? Domanda Marco. Gasperini ha ancora 3 anni di contratto al Genova. Sì, però Gasperini, insomma, se Gasperini lo chiama la Juventus, credo che ci andrebbe molto volentieri, e credo che il Genoa, insomma, lo lascerebbe libero. In genere questo questi gentleman agreement in caso di chiamata da grande squadra, insomma, si fanno. Poi evidentemente Genoa potrebbe anche far valere il contratto. Mi sembra di aver capito che non sarebbe quella l'intenzione genoana. Gratitudine ad Ancelotti, scrive Gibril da Legnano, ma ormai ha fatto il suo tempo. Mi stuzzica Allegri. Leonardo, grande persona, ma non ha mai allenato. Questo è molto vero. Sono un tifoso della Fiorentina e spero che la Juve rimanga Ranieri, perché essere a soli 3 punti a 3 giornate dalla fine non era capitato spesso. Il Milan lo farei allenare direttamente a Papi, scrive Paolo da Prato. Vabbè, non... Prandelli, unico allenatore potenzialmente vincente, secondo Ricky, che ha scritto da Mantova. Tocca Massimo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Un paio di cose. La prima, secondo me, è Leonardo al Milan di sicuro. E poi avrei un suggerimento, perché non fare come la Champions League, che ogni anno segna una città per la finale della Coppa Italia? Questo potrebbe essere un'idea, in effetti, perché no? Si potrebbe anche fare. Io credo più alle suggestioni di una tradizione. La capitale, lo stadio della capitale, si chiama Coppa Italia, credo, insomma, il capo dello Stato. Bah, insomma, a me mi crea più suggestione, ecco. Però non è detto che sia una brutta idea. In Spagna, per esempio, credo che la Coppa Italia la Coppa di Spagna si giochi, insomma, la finale si giochi a seconda della sede, cioè a seconda di chi sono le squadre qualificate. Comunque stasera si gioca a Valencia, tra l'altro, e stasera c'è un ricco programma di calcio internazionale, perché a Valencia c'è la finale tra Barcellona e Athletic Bilbao, con tutta una serie di, a parte una forte rivalità tra queste due squadre, a parte uno sbilancio tecnico, è ovvio, perché tra Barcellona e Athletic Bilbao in campionato ci sono alcune decine di punti. Ma poi perché anche in Spagna è prevista la presenza del capo dello Stato, in questo caso del re Juan Carlos, in tribuna, ma già sono abbastanza separatisti in Catalogna, non ne parliamo a Bilbao, quindi i baschi hanno deciso che, visto che Juan Carlos sarà in tribuna, l'ordine di scuderia per i tifosi dell'Atletico Bilbao è di dargli le spalle e di fischiare l'inno. Questo per dire che non è poi proprio sempre soltanto da noi che ogni tanto si mischiano altre considerazioni, altri valori, altri problemi nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Questa non è una cosa certamente condivisibile e soprattutto non è in linea con quanto accade oggi nel calcio spagnolo, anche se si sa che il separatismo basco qualche problema l'ha creato in passato e continua a crearlo. Poi c'è stasera il confronto a distanza nel campionato francese tra le due capoliste, perché giocano sia il Marsiglia a Nizza, in una specie di derby della Costa Azzurra, comunque del Mediterraneo francese, e il Bordeaux va a Valenciennes. Sono tutte e due in trasferta e tutte e due a pari punti, e ormai hanno staccato il Lione, e quindi questa è una partita decisiva. Gioca il Manchester stasera, il recupero a Wigan, e se lo United vince va a più 6 in classifica e ha praticamente chiuso il campionato che è apertissimo invece ancora in Germania, dove ieri sera nel turno infrasettimanale hanno vinto 3-0 sia il Bayern che il Wolfsburg. Sono tutte e due ancora appaiate in testa. Il Wolfsburg ha 2 gol in più di vantaggio nella differenza reti, che alla fine peserà, e per l'ennesima volta, mentre al Bayern si sono divisi i gol tra Toni, Ribéry e Podolski, per l'ennesima volta Dzeko, questo centravanti del Wolfsburg che sta facendo meraviglie quest'anno, ha segnato i 3 gol della squadra di Magath. Torniamo al nostro argomento. Rino da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io più cresco e meno capisco certe cose. È da qualche anno che vediamo che meglio fanno gli allenatori, o almeno certi allenatori, prendendo addirittura in molti casi squadre dalle cose minori, dai gironi minori, e è più facile che perdano il posto. Cioè, a parte Ancelotti che potrebbe aver fatto di sua un'epoca, ma tanti altri. È normale che malgrado i risultati che portino poi vengano esonerati, vengano sostituiti. È strano, fa parte del gioco. Non ne so rispondere. Guardi, Daniele, per esempio, da Voghera scrive: mi sembra che lei voglia capire solo quello che fa comodo al programma. Pensi Daniele cosa può far comodo al programma. Gasperini è stato blindato ieri da Preziosi, che ha detto che è stufo di doverlo ripetere. Strano che lei non lo abbia sentito o letto. Buon pomeriggio, Sandro. Monza, no, non l'ho né sentito né letto. E comunque, se vuole possiamo azzardare una scommessina. Io credo che se la Juventus si presenta con la dovuta educazione, con il cappello in mano al Genoa, dicendo che Gasperini sarebbe d'accordo di andare da loro, e se il Genoa sarebbe disposto a liberarlo, io sono convinto che, magari con una liberazione onerosa, non dico di no, ma sono convinto che non litigano per questo. Gasperini tutta la vita alla faccia da Juve, scrive un altro ascoltatore. Lorenzo, provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Granzini. Dica. Credo che per gli acquisti che abbia fatto la Juve fino adesso, Cannavaro e Conte, e per il gioco che applicano i tre papabili, Cannavaro e Diego. L'unico potrebbe essere Conte, anche se credo che nel mondo del calcio ormai, visto la mancanza di poco rispetto nei confronti di alcuni personaggi, non mi meraviglierei se fosse Spalletti o magari anche Ancelotti. Piuttosto volevo sapere cosa ne pensa lei. Io non ne penso nulla, seguo questi sviluppi divertito, le ripeto, come forse risulta agli atti, non amo particolarmente nessuna delle squadre a strisce, quindi né queste due né quell'altra, e quindi chi arriverà arriverà, e poi su questa base si ragiona. Sinceramente, se proprio, mi sarei tenuto quelli che c'erano. In ogni caso, certamente al Milan, alla Juventus si poteva fare una riflessione più che altro sullo staff dei preparatori per capire il crollo finale, un crollo finale dovuto a 70 e passi infortuni muscolari, e allora insomma, qualche riflessione seria sullo staff e magari un'indagine di quel genere. Dopodiché, per come la Juve ha reso ed è andata fino a un mese fa oltre l'ostacolo, avrei riconfermato Ranieri, a patto, ripeto, di una seria indagine preventiva sul perché di tutti quegli infortuni, e una spiegazione possibilmente chiara, dopo essere risalito a responsabilità. Marione, provincia di Milano, buongiorno. Salve Garanzini, è un piacere parlare con lei. Grazie. Purtroppo ho paura che qualsiasi tecnico che sostituirà Ancelotti sulla panchina del Milan dovrà sottostare a dogmi, teorie e giocatori soprattutto dettati da Berlusconi. Questa è una cosa che personalmente, da appassionato rossonero, non approvo per nulla. Personalmente mi piacciono tecnici come Ancelotti, come Allegri, come Ballardini, che sono comunque composti, garbati, e ne capiscono molto molto di più di calcio dei loro presidenti, questo me lo lasci dire. Certo. Io purtroppo ho paura che quando comunque un allenatore è a libro paga di una società e comunque detta dei giocatori o propone dei giocatori da prendere, se poi i presidenti ragionano con la testa loro e non glieli comprano e vanno ad acquistare giocatori finiti, come nel caso quest'estate di Ronaldinho e Shevchenko, poi che colpa ne può avere l'allenatore adesso, da quello che si sente? Questa è una buona riflessione. Io sfido, cioè, questa è una buona riflessione, non inedita, intendiamoci, ma sono assolutamente certo che Ronaldinho, Shevchenko e nemmeno Beckham non stavano in cima alla lista dei rinforzi suggeriti da Ancelotti lo scorso anno. Secondo me non stava nemmeno nei primi 100, ma insomma, ma lì poi sulla posizione si può discutere. Curiosità: il ricorso alla squalifica del campo della Juve per ricordi razzisti è concluso o rischia ancora qualcosa? No, è stato sospeso è stata sospesa la valutazione sul ricorso, e è una domanda che pone Lorenzo da Firenze, e tra un po' tra un po' la decisione la diranno, perché questo è il paese dove la sabbia è sempre discretamente in agguato, ma insomma questa credo proprio di no. Sono tifoso milanista, credo in Tassotti, lei che ne dice? Alberto da Milano, dico che Tassotti sarebbe una soluzione interna di quelle che il Milan ama per restare in famiglia, no? Perché tutte le soluzioni, tolto Allegri, no, per la verità anche Spalletti, ma insomma, Rijker, Van Basten, Donadoni prima che si accasasse al Napoli, adesso Tassotti, Ancelotti in questi ultimi 8 anni, Leonardo, sono scelte interne, sono... Perché non vi alli alla Juve? Domanda Pasquale da Sondrio. Perché? È una bella domanda anche questa, anche se mi pare che dopo quell'esperienza da allenatore giocatore al Chelsea, Vialli insomma, o ha preso altre strade lui oppure non ha convinto, non saprei come dire, probabilmente ha preso altre strade lui. Mi scusi, ma non l'ho detto io quelle cose, scrive Daniele da Voghera. Mi dispiace Daniele, ho fatto un po' di confusione prima, ma sono talmente tanti i messaggi e ogni tanto si interrompono e riprendono oltre, e ho attribuito a lei una dichiarazione a un altro ascoltatore. Le dirò che ho provato a ripescare il tutto, ma ormai è già stato inghiottito dal sistema, proprio perché sono troppi quelli che sono tanti, tantissimi quelli che sono arrivati. Renato scrive: essendo abbastanza annoiato da questo calcio locale, dai suoi retroscena, le chiedo, ma il ministro degli esteri che fine ha fatto? Il ministro degli esteri ha avuto un problemino di salute assolutamente marginale e di stagione tra caldi e freddi, e quindi gli abbiamo dato qualche giorno di riposo. Sono romanista, continua Renato, ma augurerei Spalletti al Milan per lui e per la tradizione di bel calcio che ha il Milan. In effetti questa è una considerazione condivisibile. Riccardo da Siena scrive: io dico Giampaolo perché è un tecnico preparato che gestisce bene lo spogliatoio e non entra una persona equilibrata, insomma è uno che avrebbe lo stile Juventus. Riccardo da Siena. È rimasto parcheggiato un po' lungo, gli chiedo scusa. Domenico da Teramo, buongiorno. Complimenti per il programma e per questo suo modo pacato, signorile, direi, di condurre. Uh-huh. Una riflessione su Ranieri e sul mondo Juventus. Ma siamo sicuri che Ranieri non sia in grado di vincere con una squadra meglio allestita, meglio attrezzata di quella? La squadra di quest'anno non poteva che ottenere al massimo un terzo posto, un secondo posto, ma proprio a essere generosi. Questo mi domando. Sì, è una domanda più che legittima. Le dirò che stanno arrivando pareri dello stesso genere anche via mail, anche qua sono tanti, e quindi adesso che sto frugando non eccone qua uno. Come si fa a mandar via, scrive Mimmo da Agrigento, un allenatore come Ranieri che l'anno scorso è arrivato terzo in campionato dopo la B, quest'anno è stato sempre saldamente al secondo posto, non fosse stato per gli infortuni avrebbe conteso lo scudetto all'Inter. L'unica sua colpa, semmai, potrebbe essere proprio la gestione della preparazione, ma una responsabilità da condividere con lo staff medico, esattamente quello che si diceva prima. Credo che sia l'unico vero punto interrogativo sul, chiamiamolo, rendimento di Ballardini. Poi c'è invece Simone da Vicenza, Simone Dato, che si avventura in considerazioni più tecniche, anzi più tattiche. A mio avviso l'acquisto di Diego, scrive Simone, è un indizio forte su chi sarà il prossimo allenatore della Juve, cioè Spalletti, perché un giocatore come Diego, classico trequartista, si adatta perfettamente a 4-2-3-1 Spalletti, coi tre trequartisti alle spalle l'unica punta, molto meno al 4-4-2 scolastico di Ranieri o al 4-3-3 di Gasperini, che non prevede questo tipo di giocatore in mediana. La Juve di Spalletti potrebbe giocare con Iaquinta, Diego e Camoranesi dietro ad Amauri e due mediani tipo Zanetti e Sissoko. Tutto probabilmente vero, Simone, tenga però conto che Spalletti, quando è arrivato a Roma, non è che Spalletti c'è al 4-2-3-1, Spalletti se l'ha inventato a Roma perché non c'erano attaccanti, e non solo si è inventato quel modulo e l'ha perfezionato a meraviglia, ma lo ha fatto anche trasformando Totti, o comunque convincendo e condividendo la trasformazione di Totti in punta centrale, cosa che certamente non era prima. Quindi credo che la duttilità di Spalletti sia superiore a quella di un giocatore delle sue caratteristiche che gli piacciono o meno. Continuate, noi facciamo una parentesi, perché oggi è un giorno abbastanza importante per il Giro d'Italia, ma soprattutto è un giorno estremamente significativo. Allora, tutte e due le rubriche del Giro oggi, cioè anche la rubrica storica oggi è dedicata al Giro d'Italia. Quindi cominciamo con Sembraieri. Sembraieri. 13 maggio 1909. Scatta da Milano, in piena notte, la tappa iniziale del primo Giro d'Italia. corsa ciclistica organizzata dalla Gazzetta dello Sport. I 127 concorrenti devono percorrere 397 chilometri fino a Bologna. Il primo vincitore di tappa è il romano Dario Beni. L'edizione numero 1 della Corsa Rosa si svolge in 8 durissime prove. Al traguardo conclusivo, il 30 maggio, di nuovo a Milano, arrivano solo 49 partecipanti. Il primo vincitore del giro è un muratore lombardo, Luigi Ganna. Ganna incassa un premio di 5.300 lire, cifra che investirà nell'acquisto di una casa e di una piccola officina per la fabbricazione di biciclette. Altro che tempi d'oro, leggo dalla Gazzetta di oggi in un bel servizio di Claudio Gregori che allora le biciclette pesavano tra i 15 e i 16 kg, non c'era il cambio, non c'era la ruota libera, col pignone fisso, si pedalava anche in discesa. Ganna aveva un Atala con un rapporto solo, il 46x19, che sviluppava 5,17 metri per pedalata. Insomma, la metà, grosso modo, di una pedalata di oggi e in qualche caso molto, molto meno. Giro d'Italia e allora la sigla per il collegamento di giornata. Voci dal giro. La tappa del giro di oggi, la tappa di oggi del giro, illustrata e raccontata per quanto possibile dato l'orario, come sempre da Pier Augusto Stagi. Buongiorno Pier Augusto. Buongiorno a voi, esattamente quinta tappa da San Martino di Castrozza all'Alpe di Fiusi, 120 chilometri che però presentano finalmente una salita vera, una di quelle che dovrebbe rimanere nelle gambe dei corridori e quindi delineare la classifica di questo Giro d'Italia. Oggi tappa per Ivan Basso che cercherà di recuperare i 53 secondi che lo separano dalla maglia rosa, ma soprattutto una tappa estremamente interessante per Danilo Di Luca che ha soli 2 secondi dalla maglia che questa mattina ha vestito Tom Lokvist, lo svedese che ha ridato lustro al ciclismo appunto di Svezia. Da osservare anche Lance Armstrong che ieri ha vissuto una giornata difficile, ha perso 15 secondi, si è dovuto arrendere negli ultimi 700 metri quando la velocità è stata ha avuto una grande accelerazione e Armstrong è andato letteralmente fuori i giri, ma non fuori dal giro come lui ha detto poi in serata. Insomma, tappa interessante con l'Alpe di Fiusi, 20 chilometri con pendenze importanti che dovrebbero poi delineare una classifica diversa questa sera. Arrivo previsto tra le 16.30 e le 16.45. Informazione preziosa, Piero Augusto, grazie. Per i nostri ascoltatori, chiudiamo qui oggi la pagina del Giro d'Italia, anzi chiudiamola con la sigla. Voci dal Giro, in collaborazione con... Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere Transit Van Turbo Diesel Common Rail a 10.500 euro. Sabato 16 e domenica 17. Allenatore anche all'Inter, scrive Paolo da Prato, Nerazzurro, via Special One e arriva Zenga ad allenare l'Inter. Vittorio, chiamato dalla provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno, volevo dire una cosa, secondo lei come mai Berlusconi vorrebbe licenziare Ancelotti? Secondo lei poteva far di più Ancelotti quest'anno? No, secondo me no. Poteva fare di diverso, è sempre difficile dire se uno può fare di più o di meglio, forse si può sempre fare di meglio e di più, però molto di più non era semplicissimo, visto che insomma, una squadra in genere di anno in anno viene rafforzata, il Milan di quest'anno non mi sembra sia stato rafforzato. Vabbè, comunque posso dire un'altra cosa, certo. Diciamo che purtroppo diciamo che bisogna fidarsi delle intuizioni di Berlusconi, perché fino nel campo calcistico con i sacchi che erano sconosciuti, i capelli che erano nella scrivania, dietro scrivania, e poi anche Ancelotti, abbiamo fatto dei cicli vincenti al massimo, quindi no, ma soprattutto fidiamoci dell'intuizione, certo, poi il tempo passa, non è detto che basti essere chiamato Papi per rigenerarsi, insomma, col passare degli anni. Certamente le prime mosse furono strepitose, addirittura quella di Sacchi non c'è dubbio, e più ancora secondo me quella di Capello, perché noi adesso dimentichiamo, adesso che Capello allena l'Inghilterra, che nel frattempo ha vinto qualche tonnellata di scudetti, Capello è uno degli allenatori più vincenti della storia. Capello non ha mai fatto l'allenatore ed era allora un funzionario della polisportiva collegata al Milan, anzi collegata a Fininvest, ma non si era, pur essendo stato un grande giocatore sia della Juventus, prima della Roma, della Spal che della Nazionale, però esperienze da allenatore le aveva soltanto alla primavera del Milan, quindi certamente non di prestigio e non di esperienza. La squadra ereditata da Sacchi nel 91 sembrava una squadra al capolinea o comunque da innovare profondamente. Capello l'ha presa così com'era, anzi un po' più vecchiotta, e anziché vincere uno scudetto in 4 anni come Sacchi, ne vinse 3 di fila, tanto per cominciare. E quella fu una grande intuizione di Berlusconi, su questo non c'è alcun dubbio. Fabrizio da Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno. Dice. Dunque, io volevo portare due considerazioni sul fatto che il Presidente del Consiglio non vuole confermare Ancelotti. Allora, la prima secondo me è che Inzaghi non è un terminale da prima punta, e la seconda è che finisce sempre per indebolire la squadra. Col Werder Bremen, va bene, ha tolto Ronaldinho all'85esimo, va bene, permettendo al Werder Bremen di pareggiare, c'era Ambrosini con la lingua di fuori. Lui non prescinde mai da Seedorf, va bene? E anche contro la Juventus ha, diciamo, fatto ridere, nonostante abbia fatto un che si enfatizza moltissimo, che è derivato da un gol, da un tiro sbagliato di Ambrosini. Attendo la sua considerazione pregevolissima da radio. No, Fabrizio, non c'è nessuna considerazione da fare. Lei la vede così e questa è una sua ottica perfettamente legittima. Io credo che Seedorf in questi anni al Milan abbia, ma ancora anche in tempi recenti e molto recenti, pur se non è più il Seedorf degli anni d'oro, abbia portato qualche mattoncino in più rispetto a Ronaldinho col bastone da passeggio l'altra sera. Ha notato che su quel campo su cui tutti pattinavano l'unico che non andava col sedere per aria era Ronaldinho, e la spiegazione è molto semplice: perché gli altri correvano, Ronaldinho andando a spasso fai più fatica a scivolare. Ma le ripeto, queste sono tutte considerazioni personali. Se poi vogliamo parlare del grande acquisto che ha rafforzato l'attacco, e cioè il ritorno di Shevchenko per ragioni umanitarie o familiari, no, vediamo le nostre a vincere. Rifarei un passo indietro, breve, un ripasso, perché stasera si gioca pur sempre la finale di Coppa Italia. Allora, dopo aver sentito le voci dei due allenatori, sentiamo quelle dei due giocatori chiave per le due squadre. Il primo è Palombo. Rappresenta una finale di una grande competizione dove tante volte viene snobbata, però poi alla fine, quando le grandi squadre escono, ci rimangono sempre un po' male. Per me in particolar modo rappresenta una crescita personale di una società e di una squadra che da quando sono arrivato a Genova ha sempre fatto ogni anno qualcosa in più. Questo penso che anche per i tifosi sia una cosa bellissima. Palombo certamente giocherà e guiderà come sempre il centrocampo della Sampdoria. Non è detto invece che giochi Rocchi sull'altro fronte, anzi è più probabile, sempre che Pandev sia in condizioni presentabili, è più probabile che subentri Semai nella ripresa, la breve vigilia di Rocchi. E chiunque scenderà in campo darà più del massimo per ottenere un risultato che è di squadra, e quindi quello che conta è che la Lazio vinca questa Coppa. Scrive Simone da Padova: posta l'immensa stima umana che ho per Ancelotti e che non lo cambierei mai con nessuno, ma se dovesse andarsene gradirei, per la sua esperienza e per il genere di persona che è, gradirei Spalletti. Tocca a Massimo dalla provincia di Ascoli Piceno, buongiorno. A Garanzini, buongiorno. Dica. Io sono un tifoso della Lazio, spero che stasera vinca e che quindi Rossi venga confermato. Mm-hmm. Nel caso che non dovesse andare così, spero che possa essere chiamato Giampaolo, che è un grande allenatore. E poi vorrei una sua considerazione sul riscatto fatto di Zarate e i 20 milioni spesi. Secondo me il prezzo è eccessivo per una promessa ancora di un campione, andando a considerare che Tevez per esempio costa 24 milioni di euro. La ringrazio, buongiorno. Grazie a lei Massimo. Io su queste cifre qua vado sempre un po' coi piedini di piombo, sia quelle che riguardano Zarate, sia quelle che riguardano Tevez e altre ancora, un po' tutte. Non so dire, certamente è costato caro il riscatto di Zarate, però la prima parte non era costata, cioè la metà superiore non era costata nulla, e quindi credo che insomma, sarà il tempo a dire se è un affare. Adesso lasciarlo andare con quel talento che si intravede era indubbiamente un peccato. È costato molto, ma è un investimento che potrebbe fruttare. Lotito, che in genere è un po' più tiratino di così, se l'è sentita, e quindi auguriamogli di aver indovinato. Daniele ha chiamato da Ferrara, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Volevo proporle un piccolo giochino, seguo sempre la sua trasmissione molto volentieri, e volevo proporle così per scherzare un piccolo giochino. Se lei fosse un presidente di una società, no? Chi prenderebbe fra questi allenatori? Solo per capire le sue come si può dire, preferenze. Allora, tra Bruno Pesaola, Elenio Herrera, Arrigo Sacchi e Manlio Scopigno. Vorrei sapere, per curiosità, il suo parere, cioè chi prenderebbe di questi quattro? La ringrazio e l'ascolto per radio. No, dipende da che squadra ho, dipende da che ambizioni ci sono e da... Se mi voglio, insomma, se oltre a tutto il resto mi voglio divertire, il grande filosofo Manlio Scopigno non ci penso nemmeno un attimo. Se penso di voler innovare e di cercare un calcio proiettato nel futuro, parlo di allora ovviamente, allora andrei su Herrera, ovviamente essendo disposto a sborsare molti più quattrini per quegli altri. Se voglio farmi quattro risate avendo un allenatore che il calcio l'ha giocato ad altissimo livello e che è formidabile da tecnico anche per come sa sdrammatizzare le situazioni, prenderei il Petisso Pesaola, che alla fine sarebbe la mia vera scelta. Non sa chi, perché mi stresserebbe dalla se io fossi appunto il presidente, dovessi scegliere. Non amo le persone così stressanti e che sono convinte di aver inventato qualsiasi materia, in questo caso il calcio. Dunque tocca a Lorenzo, o era questo Lorenzo? Ho perso poi il conto degli ascoltatori. No, tocca a Lorenzo dalla provincia di Terni. Buongiorno, no. Mi scusi. Buongiorno, Giorgio, è piacere di parlare con lei. Grazie. Senta, io vorrei ritornare sul Milan e sull'eventuale cambio di allenatore, che premetto che se resta Angelotti sono contento, se non è che mi dispiacerebbe. Comunque io, se dovesse proprio cambiare, farei una scelta alla Sacchi, tra virgolette, e come a suo tempo Sacchi scelse Rijkaard per, diciamo, irrobustire il Milan, così adesso anch'io farei cadere la mia scelta su Rijkaard, perché sarebbe una persona nuova per il calcio, come allenatore per il calcio italiano. E poi, visto i precedenti suoi, che col Barcellona e con l'Olanda, che non ricordiamo è stata eliminata dall'Italia, ma che ci fece vedere un grande calcio, io punterei quindi su Frank Rijkaard, che è una vecchia colonna, comunque sempre del Milan, rimarrebbe in famiglia e avrebbe quel pizzico di esperienza in più degli altri, anche in campo internazionale, per la gioia, penso, dei tifosi milanisti. Ecco, io sono anche un po' romantico del calcio e amavo, non so come lei, le vecchie ali sinistre del Milan, da Galloni a Chiodi a Prati. Ti favo per questi elementi qua. Galloni era un centravanti, Chiodi pure, giocava con l'11, ma era un centravanti, quindi insomma, le ali sinistre sono altre o erano altre. Rijkaard è uno dei candidati, in effetti, anche se il suo ciclo a Barcellona è stato di livello molto alto, si era però chiuso in maniera non proprio gloriosa. Rijkaard vorrebbe dire che il primo a levare il disturbo dovrebbe essere Ronaldinho, cosa che potrebbe funzionare anche se dovesse restare Ancelotti, tra l'altro. Gianluca, Modena, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo fare una considerazione sul Milan, soprattutto su Capello, su Ancelotti e su Sedor. Io sono simpatizzato dal Milan da quando c'è Ancelotti, e la stima per la persona, per l'uomo, è molto più grande che per quella del tecnico, diciamo così. E devo dire che Ancelotti, secondo me, è stato in questi anni la fortuna di tanti giocatori che ci sono ancora nel Milan. Perché è vero che Maldini è un super uomo che è arrivato a 40 anni ancora a giocare, diciamo, ad alti livelli, tra virgolette. Però è anche vero che se non ci fosse stato un tecnico come Ancelotti, che avesse gestito lui e altri in un certo modo, forse avrebbero smesso prima questi giocatori qua. Su Seedorf la mia ammirazione è la stessa che ho per Ancelotti, e devo dire che, insomma, ha tirato la carretta e la sta tirando, perché Cacà quest'anno non si è proprio visto, Gattuso si è rotto, e secondo me, insomma, gli si può concedere anche di sbagliare qualche passaggio. Anche secondo me, c'è un ascoltatore che scrive: ma io sono juventino, ma se proprio Seedorf non lo sopportano più, perché non ce lo prestano o non ce lo vendono a noi? È una riflessione che ogni tanto i tifosi del Milan che fischiano Seedorf potrebbero fare. Grazie a Peter Bescapè in regia, grazie a Flavio Sardi in redazione, grazie a tutti voi che siete intervenuti partecipando a questo divertissement che non ci sarà domani. Domani sarà un appuntamento molto più serio, in diretta dalla Fiera del Libro di Torino, e quindi se oggi abbiamo giocato, domani cercheremo di metterla un pochino più sul culturale, pur sempre in ambito sportivo. Buon pomeriggio.